Loris, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, tutti gli ascoltatori. Niente, io facevo solo una brevissima riflessione per arrivare al punto di quello che butterei quest'anno, di quest'anno. Qualche non tantissimo tempo fa, praticare il mestiere più antico del mondo era oggetto di una leggera vergogna da parte di chi lo praticava in un senso o nell'altro, cioè per bisogno o per lussuria, diciamo. Sta di fatto che oggi invece sembra un vanto, no? Pertanto, appunto, il discorso che abbiamo fatto prima, delle escort che riprendono con i telefonini, della voracità dell'italiano medio di andare a vedere cosa accade con Tizio, con Caio, insieme a Gina, Pina, Lina, eccetera, eccetera. Quindi butterei quello che è questa immagine di sessuofaghi o sessuofagi, non so se il termine pensato al volo sia quale sia il più corretto, proprio perché secondo me siamo come italiani un'altra cosa, noi siamo gli italiani probabilmente un po' più romantici e questo bombardamento di immagine del corpo della donna utilizzato nelle cose più disparate e più assurde, dall'acqua minerale al sapone intimo per pubblicizzare appunto le varie cose, penso sia una forzatura di cui farei, ma non penso io, volentieri a meno.